canto in questo canto dal collo del cigno, che come un cigno bello che viene dal lago dei cigni, che suona il suono che saluta come grido di cigno. E vola come un cigno, alto nella luce del sole. Che canto è questo che saluta con le ali di...